Attenzione, calami! Questa è la quadriglia! Andù chi si lassa e chi si piglia, andù prima la laschi e dopo l'andurcigli! Attenzione, cari! Accominciamo sta quadriglia! Facciamo un giro e ballo! Tu giri con ma balla, tu giri con ma balla, tu giri con ma balla, su su! Ma parano maccarone, ma parano maccarone, ma parano maccarone senza cavare! E mo, cavalieri, salutiamo! La femmina da una parte e l'uomini da nata! Cominciamo da uomini, non vi faccio di male! E bravi! Manai lo fazzoletta, manai lo fazzoletta, manai lo fazzoletta, Filimena! La compagnia venne, sola sola! E muore, ma lo fai male che si viene da fame! Cominciamo da loro! Allegro, allegro! Vieni, come si mena! E giro di ballo, cavali! La vuoi lì, la vuoi là, la femmina senza mente non so quando parta. La vuoi lì, la vuoi là, e l'ombo di un curioso mentre scava soprattutto. Diamo lo giro, cavali! E forza con i granduché! Facciamo il deforo, senza brugli! In figura, cavalì! Facciamo una bella giro e ballo con la correria! La vuoi lì, la vuoi là, la femmina senza mente non so quando parta. Stati ma senti, la femmina a mezzo e l'uomini girano sempre un cerchio. Diamma! Ma in a me, voglio fare proprio più di fuorite la famosa. E mo si gira tutti insieme, facciamo un bello giro e ballo. Mi voglio fare un ballo, mi voglio fare un ballo, mi voglio fare un ballo con la zita. Ci mettono per andanze, ci mettono per andanze, ci mettono per andanze, signorina. A spasso, cavali, e senza brugli. E mo' attenzione, cavali, all'uso di Sant'Omenna, l'uomo non coppa la femmina. Vai con lo passè! Cavali, all'uso di fare il domini, la femmina coppa l'uomo. Giovanziato, passe ancora, forza abballati, abballati femmina, zitta e maratato, giro di ballo, cavali! La vuoi lì, la vuoi là, la prendo senza mente, non so quando marca. La vuoi lì, la vuoi là, e non vuole curioso, mentre scavo soprattutto. Attenzione cavali, portiamo a spasso la dama! Passei! Ferma allora lì! Formiamo un bel cerchio! Non vi imbrugliate! Andiamo mena mai, facciti su cerchio! Pronti con un batticulo, cavali! Bruano mai! Senza imbrugli! La prima botta all'uomo! Alla ritta! E la prima raffemma alla mangina! Andiamo ya! Vorremmo che ne si forma, so era va! Attenzione, attimo! E uno, e due, e tre! E sciancio la fame! Andiamo allegra! Uomo da volta, tutti insieme, e uno, e due, e tre! Vuoi di cangiare la femmina e vai con lo passeggio! Fermalo, uomo alla volta, al mio tre, siete pronti? E uno, e due, e tre! Mamma ne ha davate, tarandella fino a notte.